Grazie a Dio, una volta solo l'ho passato. Perché quella, quello lì, il fatto della broncopolmonite, guarda, quella è una cosa che se tu dovesse capitare, speriamo di no, la tosse eccetera, guarda, quella è una cosa da tenere in considerazione, perché chi ha avuto la broncopolmonite, se incomincia ad avere la tosse un pochino accentuata, è da, sicuramente da chiamare il medico. Speriamo che non succeda, ci mancherebbe altro, vabbè. Ma per dirti, no, ma lo so per esperienza, perché anch'io ce l'ho avuto un inizio di bronchite un paio di anni fa, però ho chiamato subito un medico e me l'ha troccata lì e basta, non è riuscito a individuare subito e mi ha guarito subito in un paio di giorni, capito? Però devo stare attento, perché me l'avevo detto, stai attento tutte le volte che hai la tosse, in tutti gli anni che se c'è l'influenza uno si prende un po' di tosse, siccome tu hai avuto un inizio di bronchite devi stare molto ma molto attento. E infatti se è vero che è proprio è un pochino troppo frequente questa tosse, è troppo forte, subito chiamerò il medico o andrò dal medico, capito? No, ma a me le tosse non me ne ha dato quasi niente, assolutamente. Se ne ha fatto per sbaglio mio cognato, il fratello di mio cognato, perché sono stato male il primo giorno, ma proprio male. Ecco, mi ha ascoltato, mi ha detto no, qua c'è qualcosa che non quadra. Perché mi erano venute delle coliche renali prima, un paio di giorni prima. Questo è un cardiologo, mi ha subito ascoltato dietro, ha detto qua c'è qualcosa che non quadra, c'è qualcosa di chiuso. Ha fatto fare subito la radiografia, infatti subito cure antibiotiche, sono stato 21 giorni a casa, ma la male me l'hanno scoperta subito, i primi 3 giorni hanno detto non mi basta pure, ha detto questa è la volta mia, ti sto dicendo sono stato, mai in vita mia è stato così male di sentirti andare via, morire piano piano. Ecco, sono stato 3 giorni senza mangiare, senza bere, soprattutto senza bere, anche se invece non avevo lo stimolo di bere, e quando non ti viene lo stimolo non è mai successo una cosa del genere, perché io posso stare 2-3 ore senza bere massimo, però subito mi viene voglia di bere, ne bevo in abbondanza di acqua. Quella lì sono stato 3 giorni senza bere, infatti ho detto boh, chi sarà la savona. Poi mia cugina, lo stesso medico, mi ha curato per 2 giorni a forza di antibiotici, flebo, sono stato una settimana facendo flebo, grazie a Dio mi sono ripreso subito. La cosa tragica è stata i primi 3 giorni proprio da morire, proprio sei una persona che non, cioè che ti lascia andare, non hai reazioni, poi piano piano con questa flebo e questa roba qua mi ha risollevato, la prima settimana l'ho passata tranquilla, dalla seconda, terza settimana in poi tutto tranquillo, non mi sono come a bizzarro. Però mi ha detto stai attento perché se ti becchi la ricaduta sei fregato. Sì, ma a me me l'hanno detto ugualmente, dottore, quando uno ha una bronchite e poi successivamente si può riaffiorare, capito? Bisogna stare molto attenti, soprattutto ai colpi d'aria, quando sei sudato, eccetera, è meglio tranquillo, dice, perciò è per i sintomi, ho detto, se per caso ti dovesse succedere, chiamami subito, vieni, dici in ambulatorio e così ti visito, eccetera, eccetera. Va bene, speriamo non succeda più. Avanti qua, e allora, stammi bene, fregati, non ti preoccupare, già passa fra qualche giorno, un massimo 1-2 giorni sei in piena forma. Forse gli hanno fatto Gianni e stanno parlando, ho capito, non riprende per quello, perché magari sta parlando in verticale con Gianni. Avanti, Robè. Un attimo, fatemi, lasciatemi lo spazio, io entro. Guarda, Robè, come sto uscendo con questo microfono? È quello di Claudio. Eia. Allora la modulazione Claudio è diversa, come modulazione è tutta una gubbara, tu c'hai il basso e bello profondo, comunque aria bella chiara, niente da dire. Però l'altro giorno quando ti ascoltavo a te non ti sentivo bene come dovevi sentirti. Sta cambiando, vabbè, col microfono. Ho capito, l'avevo già. Con Barra benissimo, senza, anche lui ha una bella timbrica, veramente. E vabbè, non possiamo essere tutti cantanti, vabbè, non è il problema. Gianni, avanti. Vabbè. Sì, mi qua. Guarda se sta uscendo di là il microfono. Sì che sta uscendo. Sono per volumi, sono i picchi di modulazione, quindi. Sono un po' occupo col microfono qua, ma avete cambiato microfono? No, questo è quello di Gianni, è cupo. Sì, rispetto all'altro è cupo. Cioè, ma non è che, scusa un attimino, io siccome è già successo una cosa del genere, fra, non è che ne è caduto niente da quel microfono, si è girata appena appena la capsula e magari ti toglie gli acuti per quello. Quanto la si è orientata bene la capsula? Vai, adesso un attimo sto parlando con Gianni. Già ti chiamo dopo le peri con Giulia. E io vedi? Ok, sì. Mi sa come cambia, è inutile, c'è da fare o no, beh, ci vuole anche. Ci vuole la gola giusta, ci vuole per ogni microfono. Va bene, dai, sì, in effetti cambia totalmente, ripeto, uno che ha la voce come quella di Claudio, va bene magari qualsiasi microfono, perché ha i bassi, ha gli alti, ha tutto, insomma. Mentre invece gente come me, ad esempio, come Gianni, che abbiamo la voce bianca, allora non è che vanno bene, ci vuole il equalizzatore per poterla, diciamo così, regolare alla massima efficienza, alla massima modulazione, capito? Ci vorrebbe l'equalizzatore, sia per me che per Gianni. L'equalizzatore è uno dei filtri, in radio, quando utilizzavamo le radio, parlo radio FM, radio broadcasting, c'erano i filtri sul mixer, mettevi, perché tu c'avevi carenza di, c'è troppa esaltazione di tonalità alte, a cosa ci mettevi il filtro sul, c'erano tutti i filtri, attenuavi un po' gli acuti e ti dava un pochettino più di bassi, o viceversa, ti mettevi il filtro per il coso, passa alto e ti attenuava i bassi. Eccetera eccetera. Ok, vabbè, la voce purtroppo non siamo tutti cantanti, io non mi sono mai sentito in radio, per cui non posso dire niente, almeno in questo tipo di radio, in altre radio sì, le registrazioni già ce le ho ed è diverso. Però anche Marco Scoppio c'ha una bella voce in radio. Sì, certo, indubbiamente, vabbè, Marco Scoppio ha delle apparecchiature anche altre, equalizzatori eccetera, però non è quello il discorso. Ad esempio, a me mi assomigliano molto a Gio Maria, e se effettivamente è uguale la voce mia con quella di Gio Maria, devo dire che sono contento perché Gio Maria esce molto bene, e dunque significa che esco bene anch'io. No, te l'avevo detto io. Infatti, e ieri addirittura Gianni Doppio Rumo, quando io ero avanti ieri, più avanti ieri, l'ho ascoltato col suo microfono, si assomigliava tantissimo anche lui a Gio Maria come tipo di modulazione. Ok. Poi c'aveva una bella modulazione anche Coso, Salvatore Maestrale, te lo ricordi Gio? Salvatore Maestrale aveva una bella modulazione anche, certo, è vero. Sì, no, ce ne sono stati tanti, e modulazioni belle. Va bene così, dai, comunque accettiamo tutti, a noi ci vanno bene tutte le modulazioni, dalla più chiara alla più cupa, alla più scadente, alla più bassa, alla più alta, tutti ci vanno bene, non ci sono problemi, accettiamo tutti con grandissimo piacere, avanti Robè. Io mi fa. Guarda, c'è qualche cupa la modulazione. Prova a parlare. Sono 1, 2, 3, 4, 5, ti ricordo che sono barocco. Io non è che abbia visto grossissime differenze, un po' meglio questa mi sembra, però sei rauco, non posso darti rapporti esatti, perché anche qua ti mancano degli acuti rispetto a coso, a come ti ascolto normalmente, però sei rauco, per cui non posso dire, cioè quando sei sano perfettamente esci molto meglio, adesso sei un po' cupo di coso. Vorrei sentire a Gianni, se lui non ha problemi, fammi sentire a Gianni. E che problema deve avere? Sono già qua io per sentire la mia voce, avanti, avevo cercato della frequenza. Allora già, un po' cupo dai, questa qua come modulazione. Sì, ho capito già qua. Ma questo qua è il mio microfono, capito? Questo qua è il mio microfono. Il cantone è quello tuo, il microfono è il mio. Adesso cambio il microfono. È quello che utilizzi sempre, fra. Sì, questo è il cantone quello di Gianni, il microfono però è il mio. E qua un po' più di acuti ce li ha un pochettino. Aspetta che cambio il microfono. Buonasera. Sì, ciao Eugenio, compagnia mia, di Claudio, di Giulio e di Gianni Doppio Room in altra sede. Quanta gente stasera? Allora, chi si dice? Stai muovendo i pani e i pesci. capisci, per quello siamo tutti qua per questo. Ah, ah, per burlarci cosa va a me. Ciao Genio, ciao, ciao Giappa, Giappa, ti sento molto male, ti sento, io non riesco a sentire bene, a capire bene quello che dici. Ciao Genio, lo sento benissimo. Avanti Genio, riprendi. Cosa vuoi che ti dica? È così comunque, riprendi qua. era solo la prova che volevo fare, l'ho fatta, tutto qui, vabbè. Io ho fatto lo prossimo, chi era l'altro? Ah, no, non c'è nessun altro, c'era Conte, ma non è riuscito a farsi sentire perché avevo un microfono, forse stava piantando qualche microfono e non è riuscito a farsi capire la meta, almeno. C'è Roberto, Conte, ci sarà ancora l'ascolto, non lo so. E poi Eugenio, oltre a Gianni, a te, mazza, io, eccetera, mazza. Io. Dove c'è anche Gianni? Certo, beh, Gianni era con te, no? Dunque, non so se è andato via adesso, se si è rimesso in macchina. Allora, vai come qua. Fastidiosissimo da sta cosa. Ci sarà, vai. Ciao Gino, ciao a tutti i nuovi entrati, l'Odio Roma li supercordializza, avanti. Non ho sentito Gianni in macchina. Sì, l'ho sentito, ciao Gianni, ma adesso sei lontano, perché ti sento basso, Ma sei lontano Gianni. No, era in mezzo ai palazzi, dai, adesso magari ne esco e mi sentite meglio. Era un po' in mezzo ai palazzi. C'è roba 60 qua. Sì, cosa lo dico? Non so se è una batteria lì a portata di mano della macchina, e prova con la batteria, se elimini l'alternata, allora effettivamente, come ti dico io, l'alimentatore che è troppo debole, vuole più forte sicuramente. Avanti, Luigi. Adesso lo stacco, mi ripiazzo l'altro, vediamo un po', vediamo un po' più grosso. Perché... è troppo fastidioso questo rumore. Ascolta, fai questa prova. Fai questa prova. Ah, tu mi hai detto che anche quando non stai parlando non senti ugualmente il rumore della serata. E allora l'alimentatore che non è stabilizzato, qualcosa c'è Eugenio. No, perché se no ti stavo consigliando, abbassa la potenza di quell'apparecchio, anziché farlo funzionare a 10 watt in AM, farlo funzionare più basso e se c'è ancora l'alternata, ma adesso mi sono ricordato che hai detto che anche quando sei in ascolto solamente lo senti sempre, vabbè, comunque fai quella prova, come ti ho detto, e poi vedrai che già dentro la soluzione. Vai, Robe. Ma lo senti solo tu questo rumore? Io qua non sento niente, Eugenio. No, lo sento io in cuffia. È un rumore di... un trattore. E lo sento quando non sta modulando nessuno e quando modulate anche voi. Quanto poi più forte della vostra radio. Come tu, probabilmente c'è problemi di coso. Ma che lo fai in trasmissione pura, quindi? Se voi mi sentite bene, sentite il rumore di alternanza, no? No, quando trasmetti tu senti ronzio, vedi che cosa ti sta ronzio, l'alimentatore, vibra, cosa fa? Aspetta, no, niente, zero. Tu, non lo so allora. Perché ricezione e l'assorbimento è minimo, se assorbe un ampere è troppo l'apparato, tutto l'assorbimento ce l'ha in trasmissione. Perché cosa praticamente che rispetto fa? Mi sento un rumore di alternanza anche quando non modula nessuno. Cioè un ronzio d'oro. Ma che non ci va qualche ventola, qualcosa, no? Come sta? Abbia qualche ventola, qualcosa. Aspetta, c'è la battuta attaccata, è possibile? No. No, non c'è la battuta attaccata. La stufa attaccata, c'è la stufa appena attaccata, non c'entra nulla. Ah, è l'attenatore, no? Giulio. Ok, no, non credo, c'è anch'io la sua pelle attaccata, dunque non credo che sia quello. Non lo so cosa dite. Io sinceramente in trasmissione, quando fai trasmissione non sento niente, è pulita la modulazione. È quello anche che mi dà qualche dubbio, fatto perché se per caso l'alimentatore è troppo debole, anche in trasmissione sarebbe stato disturbato da un'alternata, per noi ci avremmo sentito noi con un'alternata, ma tu mi stai dicendo che lo senti tu solamente, ma non è che hai qualche lampada fluorescente lì a casa, nei paraggi, quella che hanno il tubo, insomma, in poche parole, con le lampade lunghe fluorescenti, no? Sì, ma è spenta. Non è questione che spentano, è il reattore che te lo fa. Non c'è niente il fatto che sia spenta, può essere quello o quello, sì, è il reattore di quella lampada, guarda, che ne sono più che certo, adesso che mi hai parlato di quello, a me mi è venuto in mente, ma avrà qualche lampada fluorescente. Sicuramente è il reattore che ha del ronzio, ed ecco che ti crea quell'alternata che tu senti nell'apparato, capito? Magari se accendi la radio lo senti anche nella radio. No, perché la radio la stavo ascoltando, no? Aspetta, è proprio spenta la lampada, capito? C'ha quella a fare, c'è il cursore presso le varie per aumentare l'intensità della luce, capito? Sì, ho capito. No, prova a accendere la radio, prova la radio, anziché mettere la modulazione di frequenza, mettila in AM, invece, la modulazione di ampiezza. E se è quello te lo fa anche nella radio, guarda, ne sono sicuro, se è quello, perché il reattore, il fatto che la lampada sia spenta non significa niente, perché c'è il reattore che è sempre in tensione, quello ronza, quando comincia ad essere un po' vecchiotto, ronza il reattore, capito? Prova, non so, prova a fare quel tentativo, può darsi che mi sto sbagliando, ma quello può essere anche una delle cause. Va bene, dai, riprendi Gianni, ci sei? Gianni non lo sento, riprendi, va bene. Via. E beh, non c'è il microfono di coso, Claudio, Gianni? No, qua funziona. Funziona. Io avevo visto un pochino con il commutatorino che c'è sotto. È un difettuccio, questi MC60 stanno facendo spesso, no? Però qua si è sbloccato, funzionava, te l'ho fatto sentire, poi ho invertito i microfoni per vedere se la modulazione cambiava e sono uguale, non lo so. Ma che non c'abbia problemi sullo driver del microfono dell'apparato, molte volte si forma della polvere, poi è fatto scorrere da una parte all'altra, sul tratto del prodotto per i contatti, magari può essere anche quello lì. E però si può, infatti adesso lo tagliare di attaccare, di entrare, poi ci spostiamo, vediamo un po' di farlo spostare lo driver del mic in contemporanea con il commutatore dell'amplificatore microfonico, vediamo un po'. Cosa è successo? Mi era aggaggata quel 140 per quel regolatore di acciaio, non ho mai capito perché hanno fatto la cosa della potenza ed è una key gain del microfono così piccolino, cioè una cosa, non è meglio fare due potenziometri come 440, semplicissimi, tanto lo spazio è lo stesso, c'è lo spazio, e mentre è arrivato questi slider che sono una cagata, appena li tocchi ti c'è la potenza in una. Non lo so, ma qui ci sono come 7400 ad esempio, no? Già di potenziometri sotto piccolini, proprio Mickey Game, potenza, sono piccolini, un po' più piccoli di quelli del 440, ci stavano anche quelli bellini, come quelli del 450, quelli piccolini, insomma, hanno fatto che slide, davvero, ma non sono in palla, ecco, ma un po' che parte, poi devi stare tocca a tocca, invece insomma, va meglio. Ma anche già però c'è qua, già però ci sei, già però non c'è, e già riprendi. Un attimo, sto cercando di risolvere questo problema che è troppo fastidioso. Ma come ti ha detto Giulio, guarda che se è un rumore che senti, che si porta dentro, e quanto vuole c'è nella stanza vicino al baracchino, capito? Può essere anche come ti ha detto Giulio, qualche lampada di quella neon, qualcosa che c'è collegata, qualche attacco microfonico di quegli attacchi per, come si chiamano giù? Quei stabilizzatori piccolini per caricare il telefonino, per caricare i portatili, capita anche quello a fare per caricare i portatili dalla fastidia. Sì, è vero qua, perché non sono stabilizzati quindi al 100%. Fai anche un'altra prova, Eugenio, se mi stai ascoltando. Stacca la spina dell'alimentatore e la giri, la metti invertita, da destra a sinistra, capito? Prova anche quello. Insomma, diciamo che sono tutti motivi per cui potrebbe crearti quel problema che ti sta creando. È questione di trovare il difetto, però è così, sempre che, ripeto, non ci sia un qualcosa nell'alimentatore di se stesso, però tutti questi tentativi che ti sto elencando li dovresti fare, perché guarda che te li sto dicendo con cognizione di causa, perché io ho fatto tanti anni di elettricista e so che cosa può comportare un disturbo del genere alle apparecchie elettroniche, capito? E oggi, avanti. Beh, stavo dicendo, ho girato la presa, niente, uguale. Stavo dicendo, ma è possibile perché ho l'alimentatore sopra il baracchino? Però c'è il legno tra il baracchino e il l'alimentatore ci legge. L'alimentatore sul baracchino, quello è un errore grandissimo, lo dovreste allontanare, può essere proprio quello, perché no, certo che può essere, altro che, io non credo, allontanano il più possibile dal baracchino, l'alimentatore va messo sempre alla massima distanza che puoi fare dal baracchino, perché anche quello può creare dei problemi, perché ripeto, l'alimentatore avendo un ripple troppo alto, allora entra nella radiofrequenza. Il ripple non è altro, sono gli hertz praticamente, quindi della corrente elettrica. E quello, se non è un alimentatore che ha il ripple molto basso, allora può entrare nella radiofrequenza. Se poi è messo uno sull'altro, tanto meglio, è ancora più probabile che possa entrare nella radiofrequenza, capito Luigi? È un attimino che me l'ha detto, un attimino che torno subito. Ok, riprendi qua. Infatti io gli alimentatori non ce li ho neanche, ce l'hai visto come organizzato qua, ce li ho lontani, capito? Non li ho lontani, no, non ce ne vogliono lì, li ho alimentatori vicino, avanti, vabbè. Poi le schermature non si fanno con il coso, con il legno, si fanno con il metallo, eventualmente serve schermare le due cose, ci vuole un'altra di metallo. Ma se non è molto filtrato l'alimentatore, vabbè, anche tenendolo distante un pochino può entrare se non è molto filtrato. Infatti perché si prende sempre un alimentatore a basso rumore? Proprio per quel motivo lì si dovrebbe comprare, è importantissimo. Quando noi andiamo a acquistare un alimentatore dovremo sempre guardare le caratteristiche, soprattutto quelle del rumore, oltre che della tensione, eccetera, eccetera, che danno. Che può dare e degli amperi. Se c'è un ripple molto alto può essere oggetto di disturbo nella radio, questo è scontato al 100%. Va bene, poi fai come ha detto Claudio, anche controlla, non avrai il telefonino sotto carica o tu o tua moglie o qualcuno lì a casa, perché anche quello ti comporta dei disturbi, oggi ci stai ascoltando. Insomma, ci sono tante cose, sono prove che devi eseguire per trovare qual è il problema che ti crea l'alternata, capito? Avanti, Roberto. Può essere anche il computer, se c'è una linea wireless senza fili, quello genera disturbi lo stesso se c'è vicino al baracchino, cioè è una cosa normale. Poi io consiglio sempre, tutti gli apparati dietro, visto che hanno la possibilità, c'è la vitina sulla carcassa, sull'involucro, mettere tutto a massa, portare tutto, io ce l'ho tutti gli apparati, almeno i principali, quelli importanti, sono tutti collegati a un coso, a una piattina di rame, a un punto di massa, ci ho fatto tanti furi in questa piattina con i bulloncini, li ho tutti passati lì con quel capicorda rotondi e sono tutti portati in quel punto lì e ti elimina un sacco di problemi. Poi è sempre consigliabile utilizzare cavi grossi, che anche, è ancora meglio per i filtraggi, tutti i passaggi fatti in modo più lontano possibile dove ci siano i microfoni, perché poi magari c'è qualche rientro. E te lo dico per esperienza, perché quando c'eravamo la radio, quando c'avevamo l'uscita col mixer, bastava una fesseria, cacchio, ci faceva morire. Addirittura le ventole di raffreddamento le dovevamo isolare dalla carcassa del trasmettitore, perché rientrava tutto, quando lavori con potenze un pochettino più del normale, dai, non parliamo di potenze basse. Di lì basta una fesseria, si formano dei campi elettromagnetici all'interno, perché eravamo abbastanza vicini, nella stessa stanza c'era anche il trasmettitore vicino al mixer, e ti rientrava tutto col filo di coso, dalla bassa frequenza rientrava e sentivi questo fischio, e poi alla fine avevamo scoperto che era la ventola che voleva isolata dalla carcassa del trasmettitore. Infatti ci volevano quelle boccole in teflon per isolarla, proprio separarla completamente dal metallo. Le avevamo provate tutte, alla fine era una ventolina che faceva il fischio. Risolto. E cosa era? Ho fatto l'alimentatore da sopra il baracchino e l'ho messo sotto e non lo fa più. Hai visto che piano piano, comunque diciamo ci abbiamo elencato un pochino di cose, eventualmente se dovesse succedere sai come ti devi comportare. Avanti qua. Sì, ma non c'erano dubbi, è qualcosa di alimentazione, è qualcosa che sta caricando vicino a lui, o come ha detto lui, l'alimentatore sopra il baracchino, no, assolutamente. Più lontano possibile, capite? Ehi, giusto per accendere il ventilatore e poi andare a camminare da letto. Nel baracchino c'è un cucino, andate là. E come fichi di affari che vendono le case con l'ingresso in via non so che cosa, la casa era per un altro paese. Anni fa un libro che saranno 200 pagine, proprio un libro, cioè l'eliminazione dei disturbi su tutti gli apparati, cioè per il disturbo proveniente da una radio, cioè da un motorino che ti passa vicino, disturbo da un trapano elettrico, da un condizionatore, ci sono tutti i disturbi, ma centinaia e centinaia, sono più di 200 pagine e ci sono tutte le cose che devi fare, però la prima cosa che dicono è mettere una bella massa a terra, tutta la carcassa, e poi se c'è il problema riesci a identificare il problema, ci metti il condensatore con un'induttanza eccetera eccetera, e ci sono tutti i valori di quello che devi fare, il circuitino, e ti elimini qualunque, perché quando c'avevi l'autoradio, non so se vi ricordate, prima, adesso non se ne sente più, ma prima quando c'erano le bobine che non erano schermate, oppure le candele, negli impianti d'autoradio delle macchine sentivi tutto, adesso raramente si sente perché si utilizzano gli autoradio di qualità e i cavi delle candele sono tutti schermati ormai. Sì, sì, infatti io ho lo stesso problema ai camper. Che strano, no? Va bene, ma il camper l'abbiamo... ci ho fatto un vecchio oramai. Ma scusa un attimo, ma il camper il problema c'è sull'autoradio o sul baracchino? Sul baracchino. Ma il baracchino che alimentazione stai prendendo? Tu prendila direttamente dalla batteria con un cavo abbastanza grosso e gli fai fare prima il giro in una posizione e poi glielo puoi fare dall'altra parte della macchina e vedi se ti cambia qualcosa, che molte volte basta cambiare la posizione, il passaggio dei fili, per dire anziché farlo passare da sinistra verso destra lo fai passare dall'altra parte, però l'alimentazione prendila sempre diretta, positivo e negativo, non solo il positivo, perché qualcuno poi la massa la prende dalla carrozzeria, tu prendi come se stai montando un autoradio, due alimentazioni separate, cioè positivo e negativo, te li porti direttamente al baracchino. Io ho messo la massa al telaio, come mi hanno detto i fani, e il positivo l'ho preso dalla batteria. La massa dove l'hai presa? Al telaio. Non conviene mai farla, e quello ti prende, ti fa da schermo, ti prende tutte quante le radiazioni parassite, prendilo direttamente dal coso, dalla batteria, prendi un cavo e lo porti direttamente alla batteria, separato, se vedi che ti fa problema, prova a invertire le posizioni, passalo dal cavo, ma poi il diesel poi, è una cosa molto rara che sul diesel ti crei questi problemi. Sì, ma sento una specie di, lo stesso ronzio che sentivo qua, lo sento quando mi arrivano i segnali bassi, capito? Per esempio se mi arrivi Santiago 5, 6, 7, il ronzio lo sento, capito? Se mi arrivi forte lo cancelli del tutto, non senti più. Vabbè, questo è normale, come l'autoradio, quando c'è un segnale debole ti entra tutto, tutti i frusci e tutti i disturbi, quando c'è il forte lo sovrasti, se c'è un rapporto segnale di disturbo sono delle leggi fisiche, matematiche, dai, non c'è da sbagliare. Per cui se tu non riesci a superare il segnale col disturbo, il numero di decibel viene soppresso, cioè viene schiacciato il coso, il segnale dal disturbo. Per cui fai come ti dico io, inizia a dargli l'alimentazione separata tu, e poi volendo puoi mettere la carcassa dell'apparato a massa sulla carrozzeria. Quello è un bene che devo fare, però dagli già l'alimentazione separata tu. Perché l'involucro ti può fare da coso, da rientro, è una cosa normale, ti fa un'antenna, come che ci sia un'antenna, magari il circuito del coso, di rilevazione del baracchino non è schermato all'interno, perché molte volte c'hanno dei gusci schermati, molte volte basta fare l'alimentazione separata, positivo e negativo, e poi attaccare un carrettino di massa leggero sulla carrozzeria, e molte volte, nella maggior parte dei casi, i problemi vengono eliminati. Adesso siamo avanti a ci provo. Riprendetevi un attimino il microfono, arrivo subito, un secondino. Ok, sì, riprendo io allora. Sì, in effetti è così, devi prendere l'alimentazione diretta sia per il polo positivo che per il polo negativo direttamente dalla batteria, perché dalla carrozzeria si sa, sai, con la carrozzeria, con il movimento, il contatto scricchiola sempre, non puoi. E poi dimmi una cosa, ma come fai a avere il piano riflettente nel camper? Ma il camper non è in materiale isolante, dove l'hai messa l'antenna? L'antenna c'ho sul parafango in avanti, la cabina è lamiera. Ecco, e allora può essere anche quello, perché è troppo vicino al motore, può essere anche quello, può essere. cabina, non è possibile, ho tutto, anche lì è roba isolante. A chi li avessi un'esima? Ma prima non me lo facevo, cioè nel camper di prima non me l'ha mai fatto, poi c'erano nel paraurti. Io sto pensando, perché questo ha l'alternatore maggioranza. È probabile. Se l'antenna è troppo vicino al motore può captare il segnale del motore stesso, cioè l'interferenza, capito? E beh, non ti puoi costruire sul camper un qualcosa che ti faccia da piano riflettente, ad esempio mettendo una lastra di che so io, metallica, un qualcosa del genere, e poi naturalmente che la metti anche in contatto con tramite capricorda alla carrozzeria anche, per poter avere un piano riflettente come si deve. Anche perché uscirsi molto meglio mettendola in alto su. Guarda, sono cose che ho fatto e rifatto. Ho messo la mira sopra la cappotta, poi col capo della massa a terra, con gli occhiali, io ho portato la massa giù e non usciva l'antenna. L'antenna base calamizzata, non usciva. No, non sto parlando di antenna con la base calamettata, sto parlando di antenna fissa senza la base calamettata, perché quella già di per sé è una bassissima resa. No, cercare di costruire un piano riflettente come può essere il tettuccio di una macchina, io intendevo, capito? Non so se, vabbè, forse è troppo laborioso, o forse ti viene male a farlo, non lo so. Sono entrato. Sa che sul camper non è una cosa molto, molto fatta bene, mettere l'antenna sul camper, perché essendo isolante, una cosa isolante, io lo conosco bene, perché il camper ne ho fatto tantissimi lavori sui camper, arredamenti e anche pareti interi addirittura, sì che lo so, perché sai qual è il lavoro che faccio io adesso, e dunque viene male, però è sempre quello il discorso, c'è poco piano riflettente, capito, sia che metti l'antenna magnetica, sia che magari non riesci a costruire un piano riflettente idoneo, proprio buono, non è semplice, sinceramente parlando non è semplice, in ogni modo vari tentativi li potresti fare, va bene, dai, avanti qua. Oh, vabbè, un attimino mi sta notando, riprendo fra 10 minuti, 5 minuti, un minuto, fra un po', ciao. Ok, d'accordo, oggi, va bene, Claudio ci sei. Aspetto io, sarò a bere un attimino. E avanti. Nel camper, robe. Ma qui c'è qualcuno che non sta usando il radio, ok, avanti. Già, nene. C'ho una di quelle piccoline caricate, bella, però rende parecchio, infatti non perché ce l'ho io, ce l'ha Claudio nella macchina sua, è una bomba quell'antenna, attaccata sul parafrontante, vi ho detto, c'era già tutto predisposto, c'era anche il piantone attaccato, non ho fatto altro che mettere il galletto e fissarla. Ho capito, sì, ho capito. Non so, un problema, mettere l'antenna trasmittente sul campo è un pochino un problema, lo so, perché purtroppo la cabina è isolante e allora non c'è massa e insomma, diciamo che è un pochino un rebus. Sì, è vero. A quel punto lì i giratori è meglio un portatile di quelli con l'antennina sua incorporata, di quelli tipo cannocchiale. Meglio funzionare, probabilmente funziona meglio dell'antenna fissa che è sul parafango, capito? Vabbè. Via. Vabbè, là. Si è fatta quasi l'ora di andare a cenare. Le 8 meno 20, fra un pochino. Io aspetto la chiamata da un momento all'altro, tanto lo so, è solo questione di minuti. Avanti, vabbè. Sì, Gianni era poco fa, non usciva in radio, sì. E mi sono portato il segnale, poi anche lo spacco del mic. E quando mi stavano per tirare le scatole, volevano sbattuti a terra, magari si riprendono. Vabbè, già è una cosa che risolve, non è un problema. E d'altronde le apparecchiature si possono anche guastare, no? Ma se lo fa mettere a posto, che problemi ci sono? Tutto sul sistema, tranne i gramusti, tutto il resto si mette a posto. Siamo andati sulla Luna e forse andremo pure su Marte, no? Per cui faremo di tutto e di più. Yeah, okay. È così, in effetti è così, eh. Abbiamo, l'uomo ha fatto quasi dei miracoli, ha fatto, perciò non è quello il problema, imparare l'apparecchiatura già è diventato semplice, basta metterla in mano a chi lo sa fare, non ci sono problemi. Il pallone deve solo mostrare i soldi e basta per pagare il lavoro. Cosa ti stavo dicendo? Ci sentivo dire qualcosa. Questo cos'è? Che baracchino è questo giù? Galaxy sto usando, Galaxy 2 sto usando. Poc'anzi invece avevo il presidente Wilkinson, avevo. Adesso il Galaxy in questo momento. Ma quello là che c'era bruciato non l'hai sistemato? No, nemmeno aperto, no, l'ho messo dentro un cassetto e basta. No, non ne ho voglia in questo periodo. Lo aprirò e vedrò un po' di sostituire il finale, se funziona funziona, se non funziona pazienza, no, non è un problema. Già ne ho altri. Non mi dispero, già ne ho tanti, robe. No, lo so che non ti mancano, dai, meglio così, meglio avere sempre qualcuno di ricambio, anche io non mi lamento, dai. Pure tratti, sono rientrato, Mi è tratti parecchio a aprire e chiudere i baracchini. Ok, oggi. Va bene così. Hai visto oggi quante cose che si imparano in frequenza riguardo dell'elettronica? Tu non immaginavi mai che mettendo il baracchino sull'alimentatore poteva darti dei problemi. Oh, ci sono certe apparecchiature che magari non è presente, dipende sempre dai filtri e tutte queste cose qua, capito? Seria, avanti. Mica me lo immaginavo, anche perché il baracchino era abitato sotto la mensola e l'alimentatore era sopra la mensola, quindi c'è il legno in mezzo. E poi entra con lo stesso, avanti break. Buonasera a tutti, Gianni Doppiero. Poi Gianni, metti un room, ecco qua, buongiorno. Ciao, come senti fa? Mi ha ascoltato, sì, adesso, finalmente. Io ti ascolto con le orecchie già. Come mi ascolti Giulio? Non mi controllo la radio. La radio è buona, però ripeto non è buonissima, è un pochino cupa, insomma, il transetto, non è la tua radio, insomma, ecco. Però è buonissima lo stesso, non ci sono problemi. Guarda adesso. Adesso ho migliorato un tantino, ma non è questa grande differenza, eh? Allora mi cambio, stavo cercando solo di mettere a posto questo microfono che ogni tanto ha problemi. Allora c'è qualche problema tra il microfono e la connessione dell'apparato, sicuramente è così, perché anche l'appoggiamento del ritorno non funziona. Gianni? Ah, dimmi. Togli un attimino il processore e parla senza processore. Continua. No, fa la prova già. Io lo sento bene Gianni. Sì, ma quando era da Claudio era più bello col microfono da Claudio, oh già. E andava senza processore. Allora, attaccalo il processore. E così attaccato. Ma le tonalità non ti cambiano niente, spingere più, di più e basta. E strano però questa cosa, buh. Vai, là. Nel microfono, nel connettore, da qualche parte c'è qualche falso contatto, la fessiglia. l'apparato che sta usando, non ci sono dubbi. Va bene, signori belli, vi ringrazio per questo, io scendo a cenare, vai. Ciao Eugenio, ben sentito, ciao Claudio, alle prossime, guarisci in fretta. Ciao Roberto, ciao Gianni e ciao a tutti quelli che stanno all'ascolto. Ad esempio a più peso, riprendi, vabbè, io ascolto il finalino e faccio QRT che devo andare a cenare, ma non ci ha chiamato. Ciao ciao, ciao a tutti, riprendi, vabbè. Ciao Giù, ben sentito come al solito. Buona carica e buona giornata per domani se non ci sentiamo. Io rimango ancora un po' qua, tanto non ho niente da fare stasera. Ok, vai, grazie. Sì, come si fa Giulio, eh? Appena due minuti per poi ci vediamo e che dobbiamo vederci alcune cosette. Va bene, un abbraccio, a presto, buona cena. Gianni. Ciao, ci sentiamo, buona cena a tutti. Cassetto non mi interessa, anche se per dire li compagni a fatti. si è avvaliciato del colore della base, se no esce una porcheria, capito? Doppio root, allora tirati su per la fessilina, già la mettiamo a posto. Lasciamo la vuota, lasciamo la vieni qua e mettiamo tutto a posto, non c'è problema. Speriamo. Sto uscendo, sì, perché adesso mi viene il dubbio sempre. Guarda lo smitter già, se lo smitter spinge, che avete picchi con l'azione, se ci sono picchi con l'azione stai uscendo, non c'è bisogno di chiedere niente. Allora, vai. No, ma che poco fa saliva lo smitter, però non usciva del radio. Lo smitter saliva. E la vede che non usciva, è una cosa un po' strana. Mi dispiace perché, vabbè, vediamo un po' se riusciamo a vedere se si può fare qualcosa. Ti ascolto sempre bene, Poggio, sempre bene alla grande. Poi oggi, ma non è quello, non è che è mancata la modulazione, stasera non c'era più verso di farla riprendere. Ho provato il microfono, una cosa, poi il microfono l'ho provato a casa di Claudio e funzionava. Allora, due più due fa quattro, ma non è il microfono. Sì, ci posso qualche faccio contatto del collettore, già. Non ho problema, già conosco bene quella radio. Lo porti qua a pomeriggio e ti giri qua e controlliamo col testa se c'è qualche interruzione, vediamo se il danno app è collegato bene. Non ti preoccupare, già è una fesseria. E sono... già ci sono altri rimedi. Ce ne sono due qua che ci saltano un minuto. Se funziona il bando app del mio, ti prendi il mio, ti tengo un bocce e poi io quello lì già me lo sistemo. Non ho problema, già è una fesseria, dai. Flavio, un affare lo vuoi fare? Vabbè. Mi dai le MC60, io ti do l'MB più 5 e mi aggiungi anche 150 euro. No, ci sto vincendo, no, va bene così oggi. Ti do in più con l'MC60, anche l'MC80. Ah, non ti vengo incontro perché sei tu, guarda, tu per quello che hai, non ti dico che stai, hai una radio che non serve, un microfono serve, tanto è una bellissima radio, perché non hanno se una bellissima radio, comunque fai tutto. E quel microfono che non ha un costo eccessivo, qualità prezzo, io parlo sempre qualità prezzo, sta andando molto, molto bene, con un'antenna che tra l'altro è una 5 pavi, ma teniamo conto che è sempre una gran prima. Sta arrivando veramente bene, ottimo di radio, ottimo di segnale, oggi per me non ti può lamentare, cosa dici io, Roberto? No, oggi l'altra volta gli ho detto che almeno io l'ho sempre ascoltato bene, ma c'è benissimo, niente da dire. Comunque se li dai, Eugenio, cosa hai detto? Gli MB più 5, più ti devi aggiungere soldi, Claudio, se vuole MC60, almeno una tantina di euro te li devi far dare, e poi non so, un baracchino così per arrotondare. Prendo l'incontro, là. Prendo l'incontro, perché lo voglio bene. Ti ho detto, lui mi io le do l'MP5 e lui mi dà l'MC60, più là. Facciamo 80 euro perché lui. Guarda, ci mettiamo d'accordo. Già, non è un buio, ma ci devo io. Ma io ti posso aggiungere un coso, un MB più 5, cioè tu cosa metto? Mi dai l'MB più 5, ti do l'MC60, la Dunisi 908 e un M600, se vuoi. Allora, però devi riuscire a collegartelo da solo. Vabbè, non c'è problema. Vabbè, lo collego io, non c'è problema. Domi, non torniamo indietro, allora. No? Ti ha preso di certo di aver stato un eco 70 euro, qua. La casba. Morita, Gianni. Come? Saturneco. Quello di già lo sta rivendendo Saturneco 70 euro. E io? Ma devo vedere. Come si fa a vendere un Saturneco 70 euro? Così hanno detto. Chi ha detto? No, allora non si dice chi l'ha detto, ma hanno detto che c'è un Saturneco a 70 euro. E lo stavo vendendo io, ma a me non mi risulta. Io non ho mai detto una cosa del genere. No, tu no. A uno lo stava vendendo 70 euro, non tu. non lo so. Chi lo sa meglio su Pantera bisogna vedere anche come era, è stato un mezzo. Quello che ho detto io era perfetto. Non c'aveva un graffio nuovo nuovo. Poi diciamo un apparecchio che ha i suoi anni, ma grazie a Dio rifiutiamo non me ne ha fatto mai. Normalmente lo paghi 150 euro, se poi perfetto anche 200 euro qualcuno lo vende, però se la spazio alla voce lo stava dando 1,70 euro qua in zona, 70 euro o è solo la carcassa o è bruciato l'apparato. 150 euro non è più, scattano da 2,30 a 2,70 adesso. E vabbè, diciamo chi ce l'ha già se lo tiene, però se uno se ne vuole disfare è come 4,40, puoi trovare l'affare, il valore suo è da 400 a 450, poi trovi quello che riservano sul dito da 350 euro. No, io ho chiuso 130 più 130 sono 260 euro dei filtri, quindi più la schiavatore mi raccomandatore, no, no, il mio non è sciacqua, perché tanto poi me lo ricompro, ma questo è completo di tutto, non si dà meno di 450-500, ma c'è anche quello di sangue molto bello, è l'uomo nuovo come questo, molto bello lo stesso, e anche quello c'è tutto completo, e anche lui non lo dà meno di 500 euro. Purtroppo è così, ma guardate che perlomeno io che mastico molto in banda HF, mastico molto nel senso ascolto, ma c'è qualche arrivatore in ascolto, dicevo è vero, non trasmetto ma ascolto molto, e sta tornando la mania delle vecchie radio analogiche, quindi sono tutte la caccia del 751 America, dei vecchi 830, che prima dell'850 analogico, del 940, anche del 440, del 430 soprattutto, stanno cercando moltissimo il 430, perché il 430 come ricevitore è superiore al 440. Come trasmettitore non lo so, bisognerebbe sentirli tutti e due assieme, ma da laterale sto parlando. Sono tutti alla caccia di queste vecchie radio, sta tornando la moda. E dentro ho sentito un animatore che ha comprato il 751 America a 650 euro. Roba avanti. Ma se cerchi quell'oggetto, se ne sono pagato anche più di quanto vale, come una macchina, a me mi piace questa macchina, se la trovo bella come piace a me, dal colore che piace a me, la posso pagare anche di più. C'hai ragione, sono apparecchi che vanno bene, purtroppo bisogna starci molto attenti chi ci ha maneggiato, se ci hanno fatto qualche modifica o se ci hanno qualche problema, bisogna provare e sentirli soprattutto come vanno, non è che ti devi troppo fidare di acquistare su internet, però come hai detto tu ne ho visto tanta di gente che li acquista questi vecchi Kenwood, più di altri, vabbè, di Aeso, di Icomo, di vecchia generazione la maggior parte acquistano i Kenwood. 750 America è della Icom, che io ho avuto tra l'altro molti anni fa, non ho la radio per trasmettere in AM come il 440, 140, 430 eccetera, però ho la radio che in banda laterale si difende moltissimo, un bel modulatore, ha un bellissimo modulatore, comunque, va bene, non più. Qua sogno. Non è che con il microfono mi ha tenuto e sta uscendo più forte? Perché? Sto lavorando di oggi. Ma senti, vabbè. Prova a parlare. Guarda, 1, 2, 3. Più o meno come prima, non è che sta memorizzando le posizioni, forse leggermente meglio, ma non posso dirti niente di preciso perché ti sto solo ascoltando, non è che ti abbia memorizzato i parametri sull'apparato. Probabilmente sembrerebbe a orecchio che ci abbia un po' più di acuti, non lo so, può essere un'impressione mia, però da esatto rispetto io stavo guardando prima, adesso l'ho riacceso, non lo so, non ho memorizzato le posizioni. No, devi sentirlo senza colonnina esterna, io su 440 non ho colonnina esterna, la colonnina esterna ce l'ho su 430, ti dico che ha una bellissima modulazione, oggi io come lo senti a Gianni, e oggi? Ti sta portando l'MB più 5, lo cavo a scatto. Ah, per fare lo scatto, vuoi mettere dentro la scatola però? E oggi? Si deve essere spostato, deve essere spostato. E tu appunto la lavoratore in camera da letto e una racchina in cucina, come tre bicchieri ha fatto. Il cecchino non lo muore, allora poi non lo muore, perché la lavoratore in camera da letto e una racchina in cucina. E dopo tre bicchieri in giallo, che mi andava a casa e con l'ingresso va via, non so che cosa, e la casa però la trentina al tradice. Ma dice che fu il pericolo adesso. Sono contento, non l'ho sentito. Mi spiacerebbe se veramente andasse male. È troppo toro, troppo toro. La cucca è troppo comica. Ricordo che avrebbero avuto qualche grosso incidente anche, visto che tutto è segnato, c'è anche l'occhio di vetro nel caso. Era morto, avevo confrontato, era di Topi. Ha preso praticamente i sensi di attravaccia, sono tolto la vetro, era tutto molto male. Ha avuto un bruttissimo incidente. Ma si vede che mi è messo un po' male, dai. Ma comunque, grazie a Dio, deve essere che di pelle dura. Va bene, ma non è un capo, ma è un capo, è un po'. Fa pagare. Robby, quando devo ti chiamo, devo dire una cosa. E se no ci vediamo, già ci passo. Ce l'ho in testa, telefonino, qua. E passa solo la mattina. Sì, se ti dico mi dico male quando mi vedo arrivare. Allora già, per il discorso che ho fatto stasera, la moto non parte, c'è la batteria scarica, qui devo mettere a caricare, eccetera. Allora mi ho comandato, perché la macchina via, tanto non mi serve. Mi serve solo se devo andare a Cagliari a qualche parte, perché io in ufficio vado in bicicletta. E domani ho mandato la macchina di mio cognato, quella 6, 3000, trazione integrale. Domani te mi sentite che non mi viene lì. Mi prendi i burini che... Tocca al manucchio. Io non ho mutato la rovescia, ma ho detto, che gente, cazzo, per carità che... Perché se non vivo in questa sabbarragna, che bambino la ne fa? Cisci. Ma tu ci sono via la macchina, capito? E quando l'ho visto con la 147, ui. Infatti un po' due giorni mi sono ammalato, cazzo. Mi stavate cercando? Beh, tre ore chiamandoti, ma cosa mi dici che questa cosa se ne va a tappare? Mi hanno chiamato al cellulare. Sono un ragazzo, insomma, gettonato, non mi guardare così. Vabbè. Nascita. Ma dov'è il tuo scontro? Già. Ma il tuo scontro l'hai detto sei gettonato. E hai esca. Se mi passa la telefonata, mamma mia. Martiano va con un pigiama, la rifuzza. C'è un cavo qua dentro da morire, cazzo. Adesso non è che corte. Non c'è niente di importante, roba. È che ti ho procurato una cosa e ti volevo avvisare. Via, non c'è problema, già lo sai. Beh, non mi procura mai niente nessuno. Cosa dici che te? Lo so, Bubu, tanto così. Così, tanto così. Sto per partecipare. Allora, tu già sei maestro, va. E sono qui, io tanto per vincere, tu si vuoi partecipare. Io sono una maglietta rossa addosso, sono disegnata la tromba, la tromba, e c'è scritto, nato per trombare ma costretto a lavorare, e domani vado con questo a lavorare. E vai, cosa mai che cose? Se c'è solo me la metto, così me la vedo. Un figurone fai qua, un figurone. Ecco. Buonasera. Dalla grande città del Carraggio. Ciao Sandro, buonasera. Ciao Tigre, buonasera. Io Roberto Quadrato e Gianni Oppiorutto, avanti. Ehi capo, buonasera circolare, dai. Buonasera Eugenio, Claudio, Roberto. Gianni doppio rum. Va bene, dai. Io come al solito prima vi ascolto, prima non vi perdo, prima vi seguo, va bene dai, ne stavo approfittando per farmi le mie cosettine, va bene, mi raccomando, tappatele sotto la maglietta, poi un bello corro, farò manco lungo mezzo metro. Perché si abbassa la temperatura in una maniera impressionante, ma già ieri pomeriggio si stava bene. Speriamo che se ne vada via questo inverno maledetto. Dai, di nuovo a chi tocca. Beh, ok, dai. Sarebbe anche ora che il tempo potesse cambiare, capito? Però non illudiamoci perché metà prossima settimana ci sarà di nuovo un altro peggioramento. Oh, Iuia, quando è che arriverà questo tempo bello? Okay? Vabbè, già arriverà anche lui, capito? Speriamo che non sia una bella estate di quelle belle toste. E vabbè, comunque. Noi aspettiamo e tiriamo avanti, là. Va bene. Eugenio, allora? E allora sa, dimmi, sono tutto orecchie, dimmi. Dimmi, cosa ti devo dire? Raccontaci, facci sapere delle novità lì all'interno, sta zona franca, si fa o non si fa? Magari, ma non ci credo. Ehi Claudio, ascolta. Io le dico di muoversi un po'. A giugno dice che fanno tutto. A giugno la risposta della comunità europea. Le richieste sono già state avanzate. Ora dobbiamo aspettare la risposta della comunità europea, che si sa a giugno. Sì, ma riguardo al porto, il porto di Porto Torres è stata già inoltrata e ci sarebbero delle buone prospettive. In che senso? Se passa tutta la Sardegna, non solo il porto di Porto Torres. No, allora, scusami, attualmente zona franca in Sardegna c'è Porto Scuso, che attualmente è passato come zona franca. Capito? Tutti gli altri comuni della Sardegna hanno aderito che sono favorevoli alla Sardegna zona franca. Adesso il porto di Porto Torres, essendo un porto industriale, almeno un sindaco ha fatto questa richiesta come porto industriale, come zona franca. Ma sei sicuro che Porto Scuso sia zona franca? A me non mi risulta. Ma per voi non so. Io so quello che ti ho detto, però non mi risulta che ci siano porti in Sardegna franchi, diciamo. Attualmente non ce n'è neanche uno, però ci sono delle richieste in atto. Io inizialmente ero un po' suscettibile, su questa notizia riguardo a Porto Scuso. Mi sono documentato sul Libero e Tiscali e ne ho avuto la conferma. Sì, ma no, qua in Sardegna ancora, zona franca non c'è nessun porto in zona franca. Eia, sui porti sono d'accordo con te, ancora è tutto questione di... stanno vagliando, sono partite le proposte e tutto quanto, a parte che c'è una legge, una vecchia legge del 1998, capito? Se tu vai a cercare questa legge del 1998, ti dirà, sulla zona franca della Sardegna e quant'altro. Va bene, comunque, facciamo girare un attimino, Claudio. tutte le cose. È passato in modo abbastanza brutale, secondo me. Quindi, se dovesse andare in porto questa cosa, ben venga, perché ci sarà veramente un po' di respiro per noi sardi. A te, Gianni. Quando lo arrivo, mi ha detto quello da informarsi. Molto di meno, inizierà a girare un po' di più l'economia, per molta gente, cioè la Sardegna ritornerà turistica al 100%. Io lo spero, perché ne abbiamo tutto il diritto, visto che è un'isola abbastanza turistica, abbastanza frequentata. E quindi con questo benessere sicuramente saliremo un pochino più in cattedra, visto che siamo abbandonati anche da Gesù Cristo. Avanti, Roberto. Comunque questo fatto l'ho letto anche io della Portofranco non stiamo parlando solo di furti, parliamo di tutto l'accoso, di tutta la merce che c'è in circolazione. Verrà abolita l'IVA, verrà portata l'IVA, per cui risparmieremo di media il 21%, parliamo sui beni importanti, poi su altre cose dipenderà dall'imposta che c'è. Questa è una cosa importantissima, tipo Livigno, ce ne sono pochissime di zone franche in Italia, i carburanti costano molto di meno, costerebbero molto di meno perché ci sarà la riduzione dell'IVA, devi comprarti un televisore, un'autoradio, una qualunque cosa, ci avrai la riduzione dell'IVA. Io ci credo poco perché siamo sardi, e proprio perché siamo sardi non credo che abbiamo le capacità, l'importanza nazionale di fare una cosa del genere. Anch'io ci credo poco, e comunque non abbiamo la giusta forza per continuare questa cosa qua. Ok, sì, vabbè, sui carburanti non ci sarà più la CISE, diciamo, non ci sarà più la CISE, quindi la CISE sappiamo benissimo, diciamo, che con il monopolio che va allo Stato, a parte, diciamo, l'IFA, diciamo, quant'altro. Ma io vi domando e dico questo, se attualmente la Sardegna si fornisce, diciamo, a parte, diciamo, tutto ciò che potrebbe essere, diciamo, tutto creativo e tutto di produzione in Sardegna, il resto viene esportato da fuori dalla Sardegna. Quindi attualmente, compreso CISE, compreso IFA, diciamo, e quant'altro. Allora, figuriamoci quando noi diciamo, non dovessi pagare l'IVA e la CISE non ci dovrebbe essere più. Diciamo, tutti i concorrenti, tutti i fornitori non vedrebbero l'ora di rifornire la Sardegna. Perché? Perché sono esenti, diciamo, di IVA e di tutto e quest'altro. Quindi, io dal mio parere, diciamo, la vedo positiva. Logicamente ci vorrà la forza, e penso che se c'è la forza si potrebbe arrivare, diciamo, a un buon obiettivo. Speriamo, perché saremo tutti meglio. Alle Canarie, vedi, le Canarie sono zona franca, e il gasolio costa 73 centesimi al litro. Scusa un attimino, senz'altro tutti di voi più o meno saranno stati una volta in Corsica nella propria vita, giusto? Sì. Ok, come mai la benzina e il gasolio costa molto di meno che a un tiro di schioppo? Francesi, i corsi, a parte che si fanno rispettare e sono tutti uniti, e io li conosco bene perché ci lavoro assieme, me li conosco bene, sono tutti uniti per la loro isola. Loro dicono che vivono da francesi però muoiono da corsi, sono molto diciamo patrioti, nel senso che ci tengono molto alla isola e combattono per la propria isola. Noi sardi non siamo né, come si dice, compatti, noi siamo solo a parlare nei bar, in piazza, però quando vai a fare le cose concrete, tutti stanno zitti. Ok, oggi sono a parlare con te. d'accordo con te, ma diciamo il corsicano ha delle sue idee, è un suo modo di fare abbastanza all'avanguardia, capito? È un'isola, una piccola isola che forse un secolo fa o quant'altro era benissimo attaccata alla Sardegna, poi c'è stata questa separazione. La Corsica, a parte che è un piccolo paradiso terrestre e quant'altro, la Sardegna potrebbe arrivare a tale. Molta gente è sfiduciosa e se partiamo col piede della sfiducia e quant'altro, allora cosa facciamo? Arriviamo a livello di sederci in panchina e guardarci il prossimo. Quindi sembra che sia arrivato il momento di dare un attimino di svolta, ma speriamo bene, dai. Roberto. La Corsica non è zona franca, ricordiamoci, sono come la Sardegna, hanno un statuto speciale, leggermente distaccati dal governo naturale, hanno un prefetto loro che si fa sentire, c'ha la voce in capitolo perché hanno una costituzione diversa dalla nostra. E io dico, se dovessero fare una cosa del genere si muoverebbe un po' tutto il coso, qualunque ambiente, da qualunque genere di lavoro, dall'idraulico a finire all'arrotino, per dire quanta gente si muove, quanto ambiente, così la gente si movimenterebbe, così si dice, sarebbe una cosa eccezionale per i sardi, verrebbero tutte le industrie a lavorare qua in Sardegna, spazio ne abbiamo, per cui sarebbe una grande cosa, però non credo che si possa fare una cosa del genere, perché prima di noi c'è la Sicilia e ci abbiamo sempre dei conflitti con i siciliani, è un'isola come noi, per cui solo loro sono 7 milioni e noi siamo 1.700.000, per cui abbiamo detto tutto quanto. Speriamo che mi sbagli, ma deciderà la cosa, la comunità europea, sperando che ci venga incontro. Aspetta, però, vabbè sì, la Sicilia è un'isola, però è a 2 chilometri dalla Calabria, giusto? Quindi sì, è un'isola, tra parentesi, noi siamo proprio al centro del Mediterraneo, noi siamo proprio staccati da tutti e da tutto, è diverso. Sì, ma noi siamo penalizzati in tutto, adesso stavo leggendo poco fa, la bombola del gas che noi la paghiamo di media dai 38 ai 40 ai 42 euro, io l'ho pagata a 42 euro, facendomela portare qua, il costo di partenza, la stessa bombola perché arrivano dalla Toscana, costa 18 euro, la stessa bombola in Toscana, poi come arriva da noi, la media del mercato 36, 38, 42 il prezzo, il limite che ho pagato io. Sì, costa tutto di più qua, è inutile, ma speriamo che la comunità europea si metta una mano sul cuore e l'altra sul portafoglio e firmino questo statuto maledetto. Ok, sì, Robert, ma i costi, a noi ci ammazzano i costi, l'IVA, l'accise, sui carburanti, proprio per questo motivo qua, capito? Proprio per questo motivo. Tu immaginati se non ci dovrebbe essere più l'accise e più l'IVA, è un qualcosa di particolare. Ma io me ne accorgo per dire un pacchettino del cavolo di un chilo quant'altro ti partono dalle 15 alle 16 euro, è un qualcosa di allucinante. Essendo esente di tutte queste cose qua, non abbiamo idea del movimento e della ripresa che ci dovrebbe essere. Ma io ho letto questo statuto del 1998 dove dice ben chiaro aspettiamo, vediamo un po'. Allora, io vado a cenare, dai. Vi saluto a tutti, ciao Roberto, Gianni Pedum, Eugenio, Alessandro, chiunque fosse l'ascolto. Buonasera a tutti, vado a cenare, se cucino dopo, altrimenti a domani, signori, sta per il microfono con Gianni Pedum, buonasera. per il momento, va. Andate, avanti Eugenio. Se hai bisogno, cercami, ciao. No, ciao. Ok. Eugenio, che ti ho detto? Poi un attimo che mi sto mangiando due chiacchiere, così si chiama, vediamo. Due chiacchiere che gli ha passato mia moglie. Ma fra due che ha fatto, eh? Che buona. Dai, riprendo io. Ciao Claudio, buon tutto, dai. Se ti capita passa da me, dai. Ok, buona carica e buona giornata per domani. Vai, chi c'è? Alessandro. Ok, ciao Claudio. Sentiamo alle prossime, buona carica, buon tutto. Va bene, neanche io ne approfitto, dai. Dai signori, buon proseguo di corseo, se coincida più tardi, se no buona giornata e buon inizio di settimana. Di settimana a tutti. Avanti Gianni, doppio rum. Ciao Sandro, buon sentito anche a te. Buona carica quando la fai, dai. Buona serata. Ehi, ciao Alessandro, io sarò qua per qualche minuto, dai, che mi hanno chiamato dentro, poi magari ci sentiamo più tardi. Buon tutto anche a te Sandro, ciao ciao. Ciao Sandro, buona cena. Ciao Spalviero, buona cena, masticate anche da parte mia. Ciao a tutti. Senta, allora, la senza di che si masticate. Gianni, mangiati le pane di Spagna. E ciao, ciao. Ciao Antonio, ho sentito anche a te, dai. Mi hai sentito per morire perché sembra un robot famiglia. Sembro? Un robot, tutto a scarichi, sì. Così va meglio. Mamma mia, stai facendo un bel male anche. Hola. Antonio, sono astronave. Dove sei lì? Ciao Antonio, Grondaglia. Ma perché apparato sì? Sto facendo tutta scarica. Ehi, perché adesso ce l'ha fatta a uscire. Dopo lungo e penoso malattia, tocca qua, tocca là, sono riuscito a andare a uscire, Però non è scinca, non è scinca la scusa, perché l'app-down non funziona. L'app-down non funziona sempre. Se tocchi l'app-down, adesso c'è qualche contatto tra il microfono e l'apparato. Perché come tocchi l'app-down, sono andato tutti in di nuovo. Adesso lo faccio vedere, non ti preoccupare. Lo faccio vedere, vediamo un po' se la fessi via, non c'è problema. Ciao Giappa, ma come hai? Tu mi devi sempre salutare a me, anche quando mi devi sempre salutare. Signori, ci riprendo più tardi, che mi sposto, vado a muovere la mandibola anch'io. Ciao a tutti, ci sentiamo più tardi. Allora, ma c'è da dire, anche io si stava cosa lo prendi. Buona carica. Vabbè, chi se la ti passo. Quando la buona carica, avanti, l'ho detto qua. Ti sono entrato e quindi per Giampa. Ciao, ci sentiamo Giampa. A dopo, ci sono le iene! Italia One, ci sono le iene! Infinitamente! Allora, perché mi dici? Una, due, tre, prova! Allora, una, due, tre, prova! Puoi contattare il 190 dalle 8 alle 22, visitare il sito zona comfort risk o proseguire nell'ascolto della voce guida. Per proseguire nell'ascolto della voce guida, digita 1. Per segnalare in fondo lo smarrimento della tua scheda o per problemi di ricarica, digita 2.